2024. 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, benvenuti o bentornati a 2024. Sicuramente gli auguri di un buon anno, sia che siate affezionati ascoltatori della nostra trasmissione, sia che questa per voi sia la prima volta. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini. In questa puntata riascolteremo alcune chiacchierate interessanti che abbiamo fatto negli ultimi mesi a 2024. Parleremo in modo particolare di sistemi per bloccare la pubblicità, di ad blocking e anche di eredità digitale. Però alcune parole le vorrei spendere su quello che succederà dalla prossima settimana. Dalla prossima settimana, anche se c'è ancora un clima di festa, perché ancora c'è l'Epifania che spezza la settimana in due, noi torneremo in versione integrale con una nuova puntata, e sarà una puntata speciale realizzata dal CES, cioè dal Consumer Electronics Show, che è la più importante fiera al mondo di elettronica di consumo. E qui già potremmo dire che non è più solo di elettronica di consumo, ma di tecnologia, di innovazione in generale. Ma quest'anno abbiamo pensato di fare qualcosa in più. Tutti i giorni, da lunedì 4 a venerdì 8 alle 14, ci sarà una puntata speciale di 2024, non una puntata di un'ora, così come accade al venerdì sera, ma un appuntamento di 5 minuti, un approfondimento per parlare delle novità che arrivano da questa fiera molto importante. Ricordiamo che il CES, il Consumer Electronics Show di Las Vegas, è in assoluto una delle più grandi fiere al mondo. Per quanto riguarda questo settore, è sicuramente la più grande. Pensate che nella scorsa edizione, quella 2015, all'inizio dell'anno, sono arrivati 170.000 professionisti che pagano per entrare a questa fiera. 170.000 professionisti per un appuntamento fieristico è un numero molto molto importante, quindi non è una fiera aperta a tutti. Ci sono stati, e quest'anno dovrebbero essere grosso modo, il numero dovrebbe essere grosso modo simile, 3.600 espositori provenienti da oltre 150 paesi nel mondo. Diciamo che il CES serve per capire che cosa succederà nel corso dell'anno, quali sono i trend principali, che cosa le tecnologie vincenti o le tecnologie perdenti, se non ci sono, beh, qualche dubbio lo si può far venire. Si parlerà di televisori, non c'è dubbio, con forte attenzione sulla tecnologia OLED, e vedremo chi cercherà già da quest'anno, dal 2016, cercherà di fare concorrenza a LG, che per il momento è l'unica azienda nel mondo che crede molto a questa tecnologia, che è sicuramente la tecnologia del futuro, ma che è ancora in fase di studio, in fase di sviluppo per molti produttori. Si parlerà, non c'è dubbio, di 4K o di Ultra HD, che è un'altra modalità per definire il 4K, e sul 4K dovrebbero essere annunciate nuove specifiche per la televisione in ultra alta definizione, 4 volte l'alta definizione, specifiche che forse non interessano molto il consumatore finale, ma diciamo che eviteranno che tutti vadano in ordine sparso, quindi ci sia una omogeneità di prodotti. E poi dovrebbero essere annunciati i primi modelli di lettori Blu-ray compatibili col 4K. C'è chi diceva che il Blu-ray sarebbe stato l'ultimo formato fisico, e poi ci sarebbe stato solo streaming, quindi il 4K in streaming. Beh, invece al CES vedremo molto probabilmente gli annunci dei primi modelli di lettori Blu-ray compatibili con il 4K, e probabilmente alcuni annunceranno anche i primi titoli con dischi in 4K. Ci sarà grande attenzione, grandissima attenzione sulla smart home, quindi tutti gli apparecchi che fanno diventare più intelligente la nostra casa. Per il momento la cosa che notiamo è che c'è ancora molta confusione, non esistono standard condivisi, ogni produttore ha la propria offerta, ma difficile comprare per far diventare intelligente la casa prodotti di aziende diverse, perché non si parlano tra loro, e questo rimane uno dei problemi. Vedremo che cosa succederà. Grande attenzione su tutti i wearable devices. Parleremo anche di moda, e questo è un aspetto sicuramente interessante. Altro grande trend, altro grande tema, la digital health, quindi la sanità, la salute digitale, tutti gli strumenti che si collegano con lo smartphone, e non solo con lo smartphone, si collegano a internet in generale e possono condividere magari con il medico o anche con altre persone tutto quello che noi registriamo del nostro corpo, dall'attività fisica anche alla normale attività quotidiana, che ne so, può essere il battito cardiaco o altri parametri. Poi grande attenzione alla realtà virtuale. Si dovrebbe capire finalmente quando arriveranno sul mercato i primi prodotti di realtà virtuale, e parallelamente ci sarà molta attenzione a tutti gli strumenti di ripresa panoramica 360 gradi, perché naturalmente se sul mercato usciranno strumenti che ci permettono di immergerci in una realtà virtuale, quindi la possibilità, girando il capo, di vedere un mondo virtuale, bisognerà anche avere strumenti che facciano riprese a 360 gradi per poi riprodurre nella realtà virtuale di questi visori le immagini che possiamo registrare con queste videocamere particolari. È un tema tutto da conoscere e sicuramente interessante. Poi, e concludiamo questa breve anteprima di quello che potremo molto probabilmente vedere al Consumer Electronics Show, c'è tutto il tema dei veicoli e veicoli connessi, e quindi tutta la connettività a bordo del veicolo, e poi anche i veicoli a guida autonoma. A Las Vegas vedremo, come abbiamo visto negli altri anni, delle dimostrazioni della capacità tecnologica oramai di questi veicoli, che sono veramente in grado di guidare in autonomia. In mezzo a questi trend c'è quello dei veicoli a guida elettrica, che rappresentano la mobilità del futuro, perché sicuramente i veicoli a guida autonoma saranno veicoli, non è detto che siano esclusivamente a guida elettrica, però a propulsione elettrica, ma è molto probabile che il veicolo del futuro a guida automatica, a guida autonoma, sia elettrico. Quindi, ricapitolando, appuntamento tutti i giorni alle 14 su Radio 24, poi naturalmente anche su internet, oppure prossimo venerdì dalle 22 alle 23 e domenica 10 dalle 13.30 nel nostro breve appuntamento della domenica. Detto questo, ci tuffiamo nell'argomento di questa puntata, parliamo di pubblicità. Molti consumatori, molti utenti della rete, anche molto probabilmente molti nostri ascoltatori, ritengono che la pubblicità sia una scocciatura. Qui c'è anche un problema di creatività del mondo della pubblicità, ma mentre sui mezzi tradizionali, i classici mezzi di comunicazione, non c'è un modo semplice per evitare i messaggi pubblicitari, e potrei dire, tra parentesi, io che lavoro in un mezzo tradizionale, per fortuna, sul web cambia tutto. Su web o su piattaforme mobili, sia su computer che anche su smartphone, cambia tutto, perché soprattutto negli ultimi anni sono stati creati e hanno molto successo in tutto il mondo occidentale sistemi per bloccare la pubblicità. Si chiamano ad blocking o ad blocker, e sono da un certo punto di vista un problema per l'industria, però sono anche uno stimolo per un'industria che dovrebbe preoccuparsi di più di come stanno andando le cose. Se molti consumatori vogliono evitare la pubblicità, bisognerà cercare una modalità o per obbligare i consumatori a vedere la pubblicità, oppure per essere più creativi e quindi far sì che la pubblicità sia anche piacevole e bella da vedere o da ascoltare. Io ogni tanto ascolto degli spot pubblicitari che mi sono particolarmente piaciuti, oppure vado a vedere spot pubblicitari video che mi sono particolarmente piaciuti, perché la creatività va premiata, e a volte è veramente piacevole. Esiste anche un appuntamento annuale, la famosa notte dei publivori, che mette insieme tutti gli spot pubblicitari televisivi in modo particolare che si sono distinti per creatività, e sono uno spettacolo piacevole da vedere. Quindi questa è la dimostrazione che, se si vuole, si può procedere anche su questa strada.

Ma infatti, come si diceva prima, una questione delicata del mondo di Internet è che, a differenza del mondo analogico, del mondo degli atomi, potremmo chiamarlo, nel mondo dei bit non ci sono ancora delle pratiche normative unitarie. Faccio un esempio specifico proprio con riguardo al nostro tema. Nel 2015, in agosto 2015, è entrato in vigore in Italia un regolamento europeo che armonizza le pratiche di successione, cioè consente a chi risiede nell'Unione Europea di organizzare in anticipo la propria successione come meglio ritiene, ma nel mondo analogico. Logico. Questo non varrà invece per tutto quello che riguarda le pratiche di successione nel mondo digitale. La ragione e la conseguenza ovvia è che i vari players che hanno poi sede, quindi una server farm, il loro laboratorio dei server all'estero, sono liberi di dettare leggi in senso tecnico, cioè le leggi non sono quelle adottate da parlamenti, ma quelle che legate alla best practice dei nuovi operatori. Cioè ci dobbiamo adattare alle chiamiamole normative, che in realtà non sono normative, ma sono regole che si danno i social network. Esattamente, quindi disomogeneità. Beh, quasi incredibile che ci sia una legge appena entrata in vigore che non prevede tutto ciò. Esattamente, non lo prevede perché non ha un approccio unitario, ma ancora focalizzato nel mondo degli atomi. Senti Francesca, ma se ne sta almeno parlando, cioè chi si occupa di pensare nuove norme, si sta preoccupando di questa cosa? Non lo so, sicuramente se ne sta occupando il notariato, che da un po' di anni è molto attento a queste questioni. Ovviamente il notariato si occupa di successioni e quindi adesso cerca di capire anche che cosa succede alle successioni digitali. E infatti il notariato, i notai consigliano di insomma invita di fare un mandato post mortem, che è l'unico atto con il quale si può in qualche modo indirizzare gli eredi nelle proprie volontà, nella gestione dei vari account, di tutto quello che è digitale. A questo punto non si dovrebbe domandare, ma chissà chi ci pensa, è un po' come quando ti succede qualcosa al computer, ti arriva un malware e tu fino a quel punto non hai pensato alla sicurezza, dopo ci pensi, è per la morte un po' più complicato, comunque resta, bisogna pensarci prima. È un po' come l'eredità, diciamo, il parallelo è... Esattamente, questo secondo me è uno dei punti più importanti da sottolineare, cioè una consapevolezza che deve essere evidentemente preventiva, precedente al passaggio all'altra vita, perché proprio attraverso questa consapevolezza che si possono prendere quegli step necessari che possono non assicurarci del tutto quello che potrebbe essere una nostra eredità digitale, ma quantomeno evitare che possano esserci dei vuoti normativi che evidentemente poi non danneggiano soltanto la nostra memoria, ma anche i nostri congiunti. Uno potrebbe dire, vabbè, ma chi se ne frega, cioè la mia posta elettronica la perdo, eccetera. Però in realtà pensiamo, che ne so, a fotografie che sono archiviate sul web. Tutto quello che noi scriviamo su un social network e tutto quello che ne consegue. Allora, ad esempio, da questo punto di vista, pensiamo, non so, al social network. Ci sono, vado a spanne, tra i 25 e i 30 milioni di persone in Italia che usano Facebook. Esatto. Quindi stiamo parlando di una comunità abbastanza ampia. In quel caso, se uno muore, passa a miglior vita, come si dice... Cosa succede? Allora, succede questo. Da quest'estate c'è la possibilità di indicare, quindi ogni utente di Facebook può indicare il legacy contact, quindi un contatto che Facebook, che in qualche modo viene autorizzato a lavorare su Facebook sull'account del defunto. Ovviamente può intervenire su pochissime cose, quindi può inserire per esempio un messaggio commemorativo, può rispondere addirittura a delle nuove richieste di amicizia, però non può avere accesso, quindi non può in qualche modo avere le fotografie e avere gli scritti. Quello rimane ovviamente vincolato alla persona che è deceduta. Quindi si tratta semplicemente di una possibilità di trasformare l'account di una persona viva in un account di fatto commemorativo. Questo è successo, ci sono vari casi insomma in cui è stato chiesto di trasformare l'account in un account commemorativo, che significa poter inserire dei messaggi. Cioè, dove uno può andare a scrivere cose. Esatto, sì. Però in altri casi è possibile soltanto che la persona designata chieda, provando la parentela e provando anche la morte del titolare, chieda la cancellazione dell'account, ma non può chiedere di ottenere il materiale che c'è su quell'account. Questo vale anche per gli altri social network. Non, per una questione di privacy non vengono inviate le fotografie contenute in quell'account all'erede. Questo indipendentemente dal documento che uno può fare indipendentemente, notaio. Assolutamente. Mm-hmm. L'atto il mandato post mortem è semplicemente un'indicazione che chi è ancora in vita fa per lasciare le password a un erede, per esempio, in modo che l'erede possa entrare con la password e fare delle operazioni. Nel caso in cui non ci sia questo mandato e quindi io non abbia le password del mio parente defunto, posso chiedere al social network di intervenire, ma soltanto per la cancellazione. Sì. Qui secondo me, scusate interrompo, ci sono toccati due punti fondamentali, forse vale la pena di riprendere. Il primo è quello legato al tipo di e alla modalità in cui la nostra identità digitale continua a vivere post mortem. Ora, è chiaro che l'identità digitale è molto frammentaria, ma è anche chiaro che una volta che si è passata in miglior vita, quel tipo di identità digitale non è più rilevante soltanto per noi, anzi non più per noi, ma per i nostri congiunti. Quindi ritrovarsi ad amplificare, in quel caso, il lutto che è dovuto ad una morte, evidentemente è una scelta che può essere fatta, ma non può essere l'unica soluzione. Proprio in questa vuoto normativo, sono spesso le corti, i giudici, che nelle varie parti del mondo tentano di arrivare ad alcuni compromessi. Per esempio, come diceva prima, è stato alla base di una importante decisione di un giudice brasiliano in cui una modella che era morta in circostanze oscure aveva evidentemente tutta una serie di commenti sul suo account. I genitori avevano chiesto espressamente la disattivazione dell'account per non continuare a vedere quel lutto costante. Fino a quel momento Facebook non lo prevedeva, è stata proprio una decisione del giudice che ha imposto a Facebook di prevedere un'opzione, una scelta per gli utenti. Si potrebbero fare, e questo è il primo elemento fondamentale. Il secondo, è stato trattato velocissimamente, è quello legato alle password degli account. Sì. È interessante il caso di Google, ma anche interessante il caso di Yahoo, perché qui c'è anche lì un caso concreto che poi diventa fondamentale per una normazione astratta. Un marine deceduto in Iraq aveva ovviamente dei congiunti. I genitori avevano chiesto a Yahoo la possibilità di accedere alle proprie password per preservare l'ultima corrispondenza, in quel caso ovviamente telematica, del figlio. Yahoo ha negato, nonostante fossero genitori, nonostante fosse evidentemente già provata la morte, ha negato questa possibilità per ragioni di privacy. E quindi c'è un bilanciamento. Fino a quanto e come la privacy può prevalere sugli interessi dei congiunti a ricordare, e ricordare anche attraverso quello che una volta era di carta. Molti certo, non lo certo. È. Se io la corrispondenza di carta ce l'ho nel cassetto. Esatto. In quel caso non posso, incredibile. Cioè non ancora posso oggi accedere, no. Per una questione di privacy, come diceva Oreste, non posso assolutamente. Quindi non ho accesso, per esempio, neanche alle conversazioni, alle chat, per esempio. Pensiamo, che ne so, al caso anche delle fotografie. Quindi il caso di Yahoo, ma penso che valga anche per altri. Magari li citiamo. Se non ho le password, quindi non me le sono fatte dare prima, non riesco ad accedere, posso chiedere la disattivazione? Sì, la cancellazione. Ma non i contenuti, quindi anche le fotografie le perdo. Dovrei scaricarmele probabilmente manualmente, una per uno, copiandole, ma in qualche modo comunque. Se sono pubbliche. Certo, ma ad esempio la corrispondenza è privata. E in quel caso no, non c'è modo, assolutamente. Questo vale anche per altri servizi oltre a Yahoo. Ma per esempio Twitter permette di chiedere la rimozione delle foto o dei video che ritraggono la persona defunta, però bisogna ovviamente fornire prova della morte. Ma bisogna che Twitter valuti caso per caso, perché ci possono essere addirittura, può prevalere l'interesse pubblico e in quel caso non le rimuovono. Comunque la cosa importante è che bisogna pensarci prima. Come del resto per l'eredità tradizionale. Per il testamento tradizionale è la stessa cosa. Però diciamo che in quel caso ci sono delle procedure più standard, normate. Esattamente, questo. In questo caso non ci sono, ed è interessante andare a guardare anche sul sito del Consiglio del Notariato, perché ci sono dei consigli che a volte possono sembrare frivoli, ma in realtà sono fondamentali. Per esempio, scegliere bene la persona a cui lasciare le password ed evitare che in genere che sia il coniuge. Esatto, questa è una cosa molto divertente. I notai la consigliano, sconsigliano, cioè di lasciare le password al coniuge, al fidanzato, al compagno. La ragione ovvia. Per mille motivi, diciamo, soprattutto per lo scambio di corrispondenza. Poi perché potrebbe essere potrebbe essere non per tempo indefinito un compagno, coniuge, quindi potrebbe avere anche buone ragioni. Bisogna aggiornarlo, infatti, il mandato. Consigliano anche di aggiornarlo, come si fa con i testamenti, poi di fatto. Certo, perché se uno non muore può cambiare la password, ma D'altronde può essere anche interessante rilevare questo. Perché poi attenzione, certe cose possono essere, perché uno dice, vabbè, una volta che uno è morto, chi se ne frega. No, alcuni contenuti potrebbero essere poi utilizzati verso terzi. Quindi assolutamente. C'è tutto un Quello che è interessante è che però un argomento che poteva essere un argomento abbastanza condiviso è stato invece rigettato dalle corti, cioè si diceva la casella email è uguale alla cassetta di sicurezza, quindi può entrare nell'accio successorio così come capita per la cassetta di sicurezza. No. Secondo i giudici non è così, perché è così. Il portato emozionale, quindi non soltanto legato a un elemento di possesso materiale, ma anche un elemento emotivo, è superiore nella mail rispetto a sette di sicurezza, quindi non si applica la stessa regola. Pazzesco, eh? Apriamo un capitolo che può sembrare strano, perché qua, fino adesso abbiamo parlato di contenuti che possono essere creati gratuitamente. No, io sì. Carico una fotografia su un social network, pur scrivo cose, mi scambio delle email in posta elettronica, eccetera, eccetera. Quando, buona parte della nostra vita digitale è invece acquistata. Vabbè, per quanto riguarda gli abbonamenti, cioè se io sono abbonato ad un servizio, ok, finito l'abbonamento, scade tutto, esatto. E quello lì non c'è problema. Ma se io ho comprato dei video, delle canzoni... Esatto, è proprio quello che, di cui accennavamo, ma è interessante. Allora, in America si è stimato che ogni persona oggi possiede un patrimonio di beni in qualche modo intangibili, quindi appunto digitali, pari a $35,000. Ovviamente è un dato che andrà a crescere negli anni. Questi beni, quindi questo valore di $35,000 non è trasferibile all'erede. Vuol dire che se io ho comprato degli libri, degli ebook in questo caso, ho comprato della musica, ho comprato dei film, tutto quello che ho comprato da iTunes o da tutti gli altri gestori, non posso trasferirlo, non ho nessun modo di trasferire questi beni ad un altro account, cioè, magari di un erede. Quindi stai dicendo, se io vado in libreria, compro un libro, se io vado in un negozio di disco, oppure anche online, compro un libro, un compact disc, sì. Un Blu-ray, eccetera, eccetera, poi... lascio agli eredi senza problemi, cioè certo. Successione. Abbiamo tutti ereditato delle bellissime collezioni di vinili o delle bellissime collezioni di libri, ma probabilmente i nostri figli non erediteranno la nostra musica o i nostri book. È incredibile sta sì, cosa. Sì. Perché? Perché sono legati all'account che è personale, quindi defunta la persona titolare dell'account non c'è modo di lasciarli ad altri. Cioè quindi se uno ha speso 10.000 euro in dischi... Sì, ci sono grandi collezionisti di musica, per esempio, che adesso ovviamente sono passati al digitale, purtroppo rimane loro, rimane personale quella musica. E quindi insomma ci sono delle spese cospicue che si sono fatte nella vita che però non possono essere trasferite. E come lo risolviamo, Oreste, questo problema? Il problema si può risolvere soltanto partendo dal primo spunto da cui siamo partiti, cioè la verità è che fino a quando ci saranno delle normative che non sono, come dicevi giustamente tu, normative, ma sono degli standard che sono adottati in maniera volontaria dai singoli operatori, avremo comunque una mancata unitarietà e una mancata possibilità da parte degli utenti di avere un legittimo affidamento su quello che è possibile e non possibile fare. La verità è che è arrivato probabilmente il momento di regolare in maniera unitaria, soprattutto da parte dell'Unione Europea, perché come se guardiamo gli ultimi anni è stata sempre l'Unione Europea, prima ancora che gli Stati Uniti, è venuta proprio dall'Unione Europea la necessità di tutelare il cittadino europeo rispetto a quelli che possono essere problemi legati al mondo di internet. Quindi a mio avviso il tempo è maturo per pensare a una normativa che non può essere per definizione nazionale, certo, ma non può certo. essere neanche globale, perché sarebbe eccessiva. Probabilmente un giusto compromesso potrebbe essere quello del territorio europeo. Anche perché si sta discutendo e cercando di normare il famoso digital single market, anche questo fa parte del ottimo spunto, soprattutto perché se ci pensiamo potrebbe essere veramente il modo per rigettare definitivamente quello che è l'argomento fondamentale alla base degli operatori per la non applicazione normativa europea, cioè i server sono in Silicon Valley, comunque negli Stati Uniti, quindi la legge the law of the land è quello statunitense. Non è vero, sì. Se noi applichiamo normativa europea anche gli operatori stranieri saranno costretti a applicarla. Certo, maggior ragione adesso che è venuto meno il Safe Harbor famoso, cioè tutta la normativa che legava lo scambio e la detenzione dei dati, adesso dovrà essere ridiscussa, quindi questo potrebbe essere un tassello da inserire. Ma non c'è la possibilità di tutti i contenuti che io ho acquistato sono legati ad un account, ma non esiste la possibilità, nessun gestore permette di trasferire il mio account ad un'altra persona e quindi poi anche tutti i contenuti adesso legati? Come dice giustamente Francesca, il trasferimento in toto dell'account non è una pratica che viene perseguita. Quello che viene può essere seguita è l'indicazione di un soggetto che si prende cura di alcune cose e può fare alcune cose ma non altre. Faccio un esempio specifico. Quando si parlava del legacy contact, l'esecutore testamentario virtuale, digitale, non può evidentemente accedere ai messaggi privati del decuius. Perché? Perché ovviamente sarebbe una violazione eccessiva della privacy, quindi attraverso un principio di proporzionalità può fare alcune cose come un messaggio iniziale e curare l'immagine profilo, ma non altro. Questo è un elemento di gradualità che chiaramente però fa sì che non ci possa mai essere un trasferimento completo. Sì. Per concludere, Francesca, tutti i grandi player, quelli che conosciamo, quindi Facebook, Google, Yahoo, Dropbox, perché è un sistema molto utilizzato, hanno tutti comunque una procedura o c'è qualche buco? No, si stanno dotando tutti di procedure, chi più e chi meno, diciamo, precise. Però, per esempio, il caso di Dropbox che citavi è molto interessante, perché ovviamente su questi cloud noi ormai salviamo tantissimo materiale. Sì. Si parlava, per esempio, della possibilità di salvare dei manoscritti che possono comunque avere un valore o comunque possono avere anche semplicemente un valore affettivo per gli eredi, oppure anche dei progetti incompiuti. Pensiamo a un architetto che magari ha dei progetti lasciati sul suo, diciamo, account. Allora, proprio per questo diventa importante la questione di cui parlavamo, cioè del mandato post mortem, perché soltanto se c'è la prova che la persona deceduta ha esplicitamente lasciato a un erede le sue volontà di accedere a Dropbox, Dropbox permette all'erede di accedere e di prendere questo materiale. In caso contrario permette soltanto la cancellazione, quindi tutto quello che è salvato, progetti, manoscritti, fotografie o tutto quello che può essere archiviato viene cancellato. Quindi è importante pensarci prima, come dicevi tu, lasciare qualche indicazione. Sì. Molto importante. E poi pensate, oggi quando noi aderiamo ad un servizio dovremmo leggere tutta una serie di cose prima di cliccare su accetta. Certo. E una di queste dovrebbe essere anche tutta la... Sì. La ecco, quello che dicevi prima. Allora, sì, più o meno tutti i grandi player prevedono qualche regola da questo punto di vista, ma è molto difficile trovarle. Quindi hai lavorato un sacco perché tu hai scritto... Sì, abbiamo preparato una pagina in cui abbiamo fatto un po' la ricerca di tutte le procedure nel caso di morte del titolare dell'account, e devo dire è difficilissimo trovarle nei vari siti. Molto bene, io ringrazio Oreste Pollicino, che insegna diritto dei media alla Bocconi a Milano. Grazie. Grazie molto. E grazie a Francesca Milano, a presto. Grazie. E anche per questa puntata è tutto. Questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Tra poco le notizie di GR24. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Torniamo domenica alle 13.30. L'augurio di una buona serata. 2024.